troppo su. La superficie liscia dei miei pensieri, mi viene voglia di toccarti, ho ancora più voglia di ieri. E mi spieghi cosa sto facendo? Mi dici cosa sto aspettando? Le mie mani ferme mi danno nausea, un forte capogiro vorrei che mi trasmettessero. Emozioni per davvero, non stare lì a guardarmi, non stare lì a pensar, non riesco a muovermi, non posso più.